Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Infatti, questo è Mebius. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Allora, da chi incominciamo? Partiamo dalla ricerca scientifica e dal presidente Trump. E dall'America andiamo su un paese un po' più piccolino, le Maldive, il problema dell'acqua potabile. E poi una cartolina dall'Iran. Sì, da un posto dove probabilmente di cartoline ne vendono poche. E scoprirete perché. Via! Ogni anno negli Stati Uniti c'è un grande meeting dell'Associazione degli Scienziati Americani, al quale però partecipano anche un sacco di scienziati da tutto il mondo. Era a Boston quest'anno, ci sono stato, e la sensazione fortissima è che verso Trump e le sue idee sulla scienza ci sia una specie di chiamata alla resistenza, con toni come se si dovesse combattere il nazismo. C'è stato un incontro specifico proprio organizzato su questo tema con un migliaio di persone, e a questo incontro un moderatore di vari esperti presenti ha chiesto: va bene, ma in questo momento con Trump lì alla Casa Bianca, che cosa consigliereste voi agli scienziati, ai ricercatori e ricercatrici? John Hedlin, che è stato il consulente scientifico di Obama, ha detto le seguenti cose. So my advice to scientists, engineers, mathematicians inside and outside of government is as follows. First, ecco, il mio primo consiglio, dice Hedlin, rivolto agli scienziati, agli ingegneri, ai matematici, quelli che si trovano dentro istituzioni governative come tutti quelli che lavorano fuori, è il seguente. Non scoraggiatevi, non accettate intimidazioni, comunicate il vostro lavoro, i fondi che ricevete, le possibili applicazioni delle vostre ricerche. Raccontate poi con una buona comunicazione perché la scienza è importante e costruite storie che siano comprensibili dal largo pubblico. E poi Hedlin si rivolge a chi opera proprio in istituzioni pubbliche, invitandoli a un forte impegno nel far capire ai decisori politici il ruolo della ricerca scientifica. Quindi quando uno dice non accettate intimidazioni, siamo in guerra. Federico, tu dicevi che sei stato a questo importante incontro che si tiene ogni anno dell'Associazione Americana per il Progresso della Scienza, quest'anno c'è stato a Boston, però ad esempio ha dovuto disertare questo prestigioso meeting Mohamed Hassan, che è il direttore dell'Accademia per i Paesi in Via di Sviluppo di Trieste. Ha dovuto disertare questo incontro perché sudanese. Di questo ed altro parliamo adesso con Sandro Scandolo, fisico della materia, capo responsabile dei progetti scientifici dell'ECTP di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, che sta seguendo con particolare attenzione la faccenda scienza in USA per le ripercussioni che inevitabilmente ci saranno sulla comunità scientifica internazionale, e naturalmente è internazionale la comunità del Centro di Fisica di Trieste, infatti è un crocevia di studenti e scienziati da tutto il mondo, soprattutto dai paesi in via di sviluppo. Buonasera Sandro Scandolo. Buonasera a voi. Benvenuto. Partiamo insomma dal caso di Mohamed Hassan, direttore appunto della TUAS. Sì, dunque la TUAS, che è appunto una costola dell'ICTP, è un'organizzazione internazionale così come noi, i suoi membri sono scienziati che provengono da tutti gli angoli del mondo, in particolare da quei paesi che sono stati, diciamo, nella lista di Trump, e quindi gli effetti di questo ban sono abbastanza, diciamo, pesanti nel mondo della scienza, e in particolare questo secondo me è un caso lampante, perché è il direttore di un'organizzazione internazionale che per il fatto di essere un cittadino sudanese non ha potuto partecipare a un importante convegno internazionale, ma non è l'unico. Per esempio allo stesso convegno doveva partecipare anche una scienziata sudanese che avrebbe dovuto ricevere un premio per le sue, diciamo, ricerche scientifiche nel campo dell'informatica, e anche lei un premio tra l'altro dato dall'Organizzazione per le Donne Scienziate nei Paesi in Via di Sviluppo, la OST, che è anche basata qui a Trieste. Insomma, anche lei non ha potuto partecipare proprio a causa di questo problema. Hassan ha sottolineato in una lettera pubblicata sul quotidiano locale di Trieste, poi ripresa anche da Science, il fatto che oggi la scienza sia davvero internazionale, che c'è una grossa cooperazione nel campo della ricerca in tutti i campi scientifici, e naturalmente le scelte di Trump hanno un effetto deleterio, negativo sulla cooperazione, sulla collaborazione, sugli scambi che inevitabilmente ci sono quotidianamente tra scienziati e scienziate di tutto il mondo. Assolutamente, la scienza è un'impresa internazionale e sempre di più è importante, diciamo, la collaborazione internazionale per avere dei risultati di alto livello scientifici. La cosa interessante è che in realtà i governi nel mondo si stanno rendendo conto di questo e ci sono anche dei casi lampanti che vanno nella direzione proprio opposta a quello americano. Il caso più lampante forse è quello del sincrotrone che si sta costruendo in Giordania. Già, di cui abbiamo parlato. Ecco, ma senta Scandolo, lei conferma questo clima che si coglie effettivamente andando lì negli Stati Uniti, ma... No, conferma che c'è questo clima da resistenza. Certo. La cosa anche interessante è che è un clima di resistenza che si estende anche a livello istituzionale, non solo parlando con i colleghi che in qualche modo insomma condividono questo problema, ma proprio c'è stata una risposta istituzionale estremamente forte. Appunto, il caso della AAAS è uno, ma tutte le associazioni e le organizzazioni scientifiche americane, così come quelle internazionali, per esempio l'ICSU è il Consiglio Internazionale per le Scienze, che è un po' la madre di tutte le organizzazioni scientifiche, ha emesso un comunicato fortissimo, diciamo, condannando questo problema. Insomma, quindi la risposta è stata veramente incredibile e anche a livello istituzionale, a livello di istituzioni scientifiche. Ma insomma, qui dobbiamo stare a vedere quello che succederà. Certo, sembra una cosa inconcepibile, no? Certo, anche perché poi alla fine studenti soprattutto, ma anche ricercatori che vengono da questi paesi, sono un po' la linfa della ricerca e della scienza, soprattutto in America. Devo dire che ultimamente abbiamo, proprio nelle ultime settimane, avuto un aumento di richieste di supporto e anche di posizioni qui al Trieste, all'ICTP, proprio da questi paesi. Che eventualmente sono richieste che, diciamo, erano inizialmente probabilmente dirette verso l'America e adesso questi scienziati si ridirigono verso di noi perché trovano ovviamente un ambiente più accogliente. Senta, ma quale rischio si corre nell'avere un presidente antiscienza, un presidente, dicevamo prima, negazionista dei cambiamenti climatici, che mette in dubbio l'efficienza e l'efficacia delle campagne di vaccinazione, eccetera eccetera? Guardi, io la devo vedere dal punto di vista dello scienziato, diciamo, e devo dire che in questo ho visto una risposta del mondo scientifico così forte che io tendo a essere quasi ottimista. La comunità scientifica ha risposto in modo molto compatto, molto forte, sta mettendo in luce che la scienza e comunque insomma l'evidenza dei fatti è una componente fondamentale nei processi decisionali e io sono confidente che, diciamo, che l'America è un paese tutto sommato in fondo democratico e sono sicuro che riuscirà a attivare i propri meccanismi di difesa e i propri meccanismi di risposta e poter arrivare alla fine a portare questa istanza anche a livello più alto. Insomma, lei è fiducioso nel fatto che come società abbiamo insomma i necessari anticorpi per proteggerci da scelte di questo tipo. Sandro Scandolo, io la ringrazio per essere stato con noi. Buona serata. Grazie mille. Buona Buon lavoro. Veloci sulle strade per il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Di solito in trasmissione diciamo è un nome dell'ospite che è qui con noi stasera, in realtà è un po' lontano. Sì, perché ci colleghiamo con Paolo Galli, direttore del Centro del Mare Center dell'Università Bicocca di Milano, alle Maldive. Dove esattamente, Paolo Galli? Noi siamo a Magudu, su un'isoletta di 700 metri che fa parte dell'atollo di Fafu. Fafu. Siamo in mezzo all'Oceano Indiano. Scusi, ma 700 metri cos'è? Sì, no, è la lunghezza, perché è lunga 700 metri e larga 300. È proprio piccolo. E le isole e le Maldive sono tutte abbastanza piccole, sono 1200, sono tante, ma tutte di piccole dimensioni. Abitata da centinaia di persone? Sì, ci sono circa 800 persone su queste isole, 830. Che hanno a che fare con il problema dell'acqua potabile, giusto? Hanno il problema dell'acqua potabile, perché alle Maldive le isole abitate dalla popolazione locale hanno come risorsa d'acqua l'acqua piovana che viene raccolta dai tetti e che poi viene raccolta all'interno di un contenitore che la filtra un po', però dire che sia acqua potabile no. È sbagliato, però lì piove molto e uno potrebbe dire l'acqua dovrebbe bastare, invece no. Sì, per sei mesi l'acqua basta, perché per sei mesi i monsoni sono ricchi di aria umida e quindi c'è tanta acqua, però per altri sei mesi l'aria è secca, piove molto poco, che la stagione è poi quella bella dei turisti, e allora lì l'acqua può scarseggiare e in estremo le persone del luogo possono prendere l'acqua dalla falda, perché sotto le isole, sotto ogni isola ci sono due lenti d'acqua, una d'acqua dolce e una di acqua un po' salmastra, e l'acqua dolce può essere utilizzata per scopi alimentari, che ovviamente qui siamo sempre molto lontani da standard di qualità per la salute umana. Ecco, lei ha detto due lenti d'acqua, cioè come due strisce? Sono due contenitori d'acqua sotterranei, come se fossero due caverne, chiamiamole così, dove ce n'è una più superficiale che è acqua dolce e una un po' più profonda che è salmastra, perché riceve acqua dal mare. Queste lenti sono comunicanti in qualche modo tra di loro? Sì, queste lenti sono un po' comunicanti tra di loro, è tutto un sistema dinamico dove c'è acqua che arriva dalla pioggia, acqua che arriva dal mare, acqua che passa da una lente d'acqua all'altra lente d'acqua, quindi è un sistema molto complesso dove l'acqua si può spostare, gli inquinanti si possono spostare e quindi... È liquido che non si può usare di fatto, no? No, diciamo che non si può usare, non si deve usare, che nelle estreme condizioni viene usato, ma normalmente viene utilizzato quello d'acqua dolce solo per l'agricoltura adesso e in estremi casi per berlo. E quella sotto invece come scarico fognario, perché non hanno un sistema fognario le isole che è in grado di depurare l'acqua e quant'altro, quindi c'è una usano specie di pozzo nero. E allora Paolo Galli ci racconti proprio cosa state facendo voi con il Mare Center per depurare l'acqua e quindi per renderla potabile e fruibile dagli abitanti dell'isola. Sì, noi abbiamo avuto un progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente italiano in compartecipazione col Ministero dell'Ambiente maldiviano per creare un sistema di acqua potabile che sia in grado di fornire l'acqua al centro di ricerca, che ogni anno viene visitato da numerosissimi ricercatori da tutto il mondo, e acqua per la popolazione locale. Ecco, ma senta, cos'è? Un impianto grande quanto? Che cosa c'è bisogno come edificio? Sì, no, l'edificio non è molto grande, è una piccola casetta dove viene contenuto l'impianto di desalinizzatore, il desalinizzatore e il tutto attivato da dei pannelli solari. Ma di fatto questo impianto green quanta acqua riesce a rendere disponibile per voi ricercatori e per la comunità locale? Diciamo che è in grado di fornire acqua per circa 1000 persone. Costantemente, ogni giorno 1000 persone possono che è più che sufficiente. Quest'acqua. Che è più che sufficiente. Le persone sono 830 al massimo, noi siamo in grado di ospitare 40 persone tra studenti e ricercatori, quindi siamo... Ci state, più di un litro a testa. Più di un litro a testa e poi anche per lavarsi e per fare tutte le attività che servono. Ci mandi una foto della stazione che la mettiamo sul blog. Va bene, gliela mando subito. Grazie Paolo Galli, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Buon lavoro Galli. Federico, e da questo angolo di mondo paradisiaco spostiamoci in un angolo di mondo invece dove le temperature sono infernali. È tutto all'opposto delle Maldive, direi, dove stiamo per andare. Il deserto di Lut in Iran. E ci scatta una fotografia, ci fa conoscere questo ambiente estremo il geologo Paolo Ballato dell'Università Roma 3. Buonasera. Buonasera. È veramente un posto infernale? Sicuramente si trova in una fascia di latitudine in cui fa molto caldo, infatti è la zona dove abbiamo tutti i deserti, nell'emisfero settentrionale praticamente, tutta la zona che va dalla costa dell'Africa, tutto il Medio Oriente fino all'Asia interiore insomma. Temperature? Ci sono state dei record di circa 70 gradi, delle registrazioni di circa 70 gradi, però queste sono state fatte da satellite e questa è la temperatura del suolo, non è la temperatura dell'aria. Nel senso che l'aria può essere meno? Sì, le temperature potrebbero aggirarsi intorno ai 57, 58, 55 gradi, mentre quella superficie che la cui temperatura ha raggiunto 70 gradi è una superficie molto scura perché è un basalto e quindi sono rocce vulcaniche come quelle che vengono prodotte dall'Etna, solo che non essendoci vegetazione, chiaramente essendo scura, si riscalda tantissimo, per cui ecco, per questo motivo si sono registrate temperature così elevate. Comunque è, se non il, uno dei luoghi più caldi sulla Terra? Beh sì, indubbiamente, se uno ha possibilità di guardare quali sono le aree sulla Terra dove sono state registrate le temperature maggiori e diciamo misurate direttamente in sito, e si può vedere appunto che le temperature di 57, 58, 55 gradi sono quelle più alte, e queste sono le temperature che si registrano anche in Iran, nell'Iran centrale, in particolar modo nel deserto dell'Ut. Ecco, questo deserto dove si trova esattamente? Dunque, il deserto si trova nell'Iran orientale, sudorientale, è praticamente la zona di collisione tra la placca arabica, che si sposta verso nord a circa 2 cm l'anno, e la placca euroasiatica. E in questa zona di deformazione continentale abbiamo una serie di montagne molto elevate, anche sopra i 4 km, un altopiano molto esteso che va dalla Turchia all'Iran, e fra queste montagne diciamo abbiamo dei bacini isolati. Uno di questi è il bacino dell'Ut, dove troviamo questo deserto. Quanto è esteso? Come dimensione il deserto è più o meno la somma del Piemonte, Lombardia e Val d'Aosta, per capirsi. Ma è molto sotto il livello del mare, è una conca, è per questo che è molto caldo? Allora, la quota media è probabilmente intorno ai 200-300 metri, però è circondato, quindi sopra il livello del mare, però è circondato da montagne, sia ad est che a ovest, a nord e a sud, per cui è diciamo isolato dal punto di vista idrologico rispetto al Mar Caspio o al Golfo del Persico, che sono i mari più vicini. Però la cosa che sicuramente determina una temperatura così elevata, come dicevo, è la sua posizione, la latitudine prima di tutto. Paolo Ballato, visto che è un posto insomma invivibile e quindi difficilmente sarà meta delle nostre vacanze, anzi se qualcuno di voi in ascolto c'è stato fatecelo sapere, ci aiuti a immaginarcelo, insomma grandi dune, insomma cosa troviamo in questo ambiente? Il fatto che questo sia uno dei luoghi più aridi del mondo chiaramente fa sì che non ci sia vegetazione. Scusate, non essendoci vegetazione, perché praticamente non c'è precipitazione e quindi l'agente erosivo dominante è il vento. Quindi il paesaggio è profondamente scolpito dal vento, dall'azione del vento. Per esempio, c'è tutta una zona dove sono esposti delle dorsali che sono alte più o meno 100 metri e hanno lunghezze di decine di chilometri e una larghezza di poche centinaia di metri. Sono queste dorsali parallele che si chiamano Yardgans e sono state formate dall'azione del vento. Il vento, in poche parole, le canalizza e trasporta particelle in sospensione, tipo della dimensione della sabbia o più fine, che vanno a colpire questi depositi e che vengono poi scanalati, diciamo, e si formano queste forme di erosione parallela alla direzione del vento. Ma sono come delle piccole catene montuose, cioè è solido? Sì, diciamo che sono costituite da sedimenti poco consolidati generalmente. In questo caso si parla di sedimenti lacustri. E spostandosi di poco, un po' più verso est, abbiamo un campo di dune molto molto ben sviluppato. Dune anche fino a 300 metri di altezza. Insomma, in sostanza il paesaggio non è poi così monotono, ma tracce di vita ci sono? Dunque, stando a delle ricerche che sono attualmente in corso, sembra ci siano delle tracce di vita e sembra anche che siano state trovate delle carcasse di uccelli che dovrebbero essere un po' alla base della catena alimentare di alcuni predatori che vivono nel deserto, e uccelli migratori che probabilmente per qualche motivo che non è chiaro sono morti lì direttamente nel deserto. Del resto anche degli umani in quelle condizioni, quanto si può stare a 57 gradi in una zona come quella? Immagino molto poco, anche perché non ci si può riparare, non c'è ombra, fondamentalmente non c'è vegetazione. E pensate che a causa dei cambiamenti climatici molte zone del Medio Oriente pare che diventeranno proprio come questo deserto. Paolo Ballato, a questo punto la salutiamo, la ringraziamo, buona serata. Grazie, arrivederci. Buona. Grazie Ballato. Meglio le Maldive, direi. Beh, decisamente per un tuffo dove l'acqua è più blu. Eccola lì. Buona settimana a tutti. E a tutte. e vi aspettiamo su Facebook e Twitter, ci trovate come Mebius Online.